questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Oggi è venerdì 28 luglio, terz'ultima puntata per quanto riguarda l'edizione, quella prima dell'estate. Perché poi noi da martedì, cioè no, sì, c'è ancora oggi, domani e lunedì, e poi da martedì comincia l'appuntamento in spiaggia a Rimini, al bagno, non mi ricordo il numero, al Basilico, si chiama Basilico, la spiaggia si chiama Basilico. Ogni giorno l'appuntamento con M2O sarà in spiaggia al Basilico, a Rimini o Miramare, non mi ricordo, poi dopo vi dirò qualcosa di più preciso. E l'appuntamento con Provenzano e con me, che sono Gigi D'Agostino, quello lì, sarà tutti i martedì, venerdì, sabato e domenica. Gli altri giorni invece ci sarà Provenzano DJ con degli ospiti a rotazione. E questo è... ho detto tutto? Ah sì, l'orario è dalle 17 alle 19. Se non sbaglio, questo è l'orario. Insomma, l'appuntamento sarà ogni giorno, quindi con M2O, a volte con Provenzano e con me, a volte con Provenzano e altri ospiti a rotazione. E questo tutti i giorni, dal lunedì quindi alla domenica, dalle 17 alle 19, a Rimini. Bagno, non mi ricordo il numero, comunque al Basilico. Ci vediamo lì. E gli appuntamenti non sono mica finiti lì. Noi ci vediamo lì poi in spiaggia, però anche la sera ci sono diversi appuntamenti, quindi tipo per esempio questa sera, venerdì 28, cos'è, luglio? Sì, 2006. Ci sarò io, che sono Gigi D'Agostino, DJ Molella e Luca Belloni. Discoteca Altro Mondo, Rimini. Dalle ore 22:30. Balliamo lì. cammino da lunedì, cioè lunedì esiste ancora, cammina ancora. Da martedì è in pausa spiaggia. Continueremo a camminare in spiaggia al Basilico, a Rimini, dall'1 agosto al 20 agosto e dal 21 di agosto, lunedì 21 agosto, alle ore 18, tutti i giorni. Riprenderemo il cammino in giro per il mondo. Cammineremo ovunque su questa frequenza. Benevolenza. M2O. Musica allo stato puro. Passeggiare ovunque, mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Questo è il cammino di un bravo bambino. Signore e signori, signore e signori, signore e signori, se il tempo non fosse, l'istante non sarebbe. E se non fosse l'istante, non sarebbe il tempo. Stai a capire, fratello? bella Ciccio. D'Agostino. Madame et Monsieur, vous présente l'artiste Gigi D'Agostino, le nouvel Martel. È bello. C'è una canzone bellissima di qualche tempo fa che parla dei passeri e degli usignoli. Il passero si porta avanti, concretizza. L'usignolo lo sta a guardare e passa il tempo a cantare. Scelte di vita. Is it black or is it white? Let's find another compromise. And a few just standing still. We're dancing in the spotlights. Where's the leader who leads me? I'm still waiting, leaving home. And God is on your side, dividing sparrows from the nightingales, watching all the time, dividing water from the burning fire. And sighs. And so curious. Now you're hiding from your child, and no day's dawning. Remember that you felt alive sometimes. And God is on your side, dividing cruelty from tenderness, watching all the time, dividing fiction from reality. Move in circles, walk on lines, no human being in sight. Calm the winds and calm the seas. Try another kind of peace. We'll fight this holy civil war. A million men in uniform. Voice der Führer, der mich führt. Ich warte immer noch. Leaving home. And God is on your side, dividing presence. History, watching all the time, dividing deaf men from the listening ones. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Cammino di Gigi D'Agostino. Sto cammino è bastardo, non lo vai qua, non lo vai da parte. Ma che cazzo ha? Gigi D'Agostino, reparto pelle d'oca. Tonight. in the music, slowly in the sound. I see your eyes, I see your face forever. Signori, mangiate un bello pasticcino che c'è Gigi D'Agostino. We'll be right back.

ascoltare la musica che immagino e i viaggi che sogno. Oh, su chi succe? Gigi D'Agostino! Babbè, scieto! Verbo te saluto e non te vedo. Ciao, sono il tuo sfasciaminchia zen. Se mi vuoi scrivere, acchiappa la pen. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Ma con man mano ogni giorno all'ora sesta c'è la musica che pesta, muovi un po' la testa. Ti stiamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino? Minchia, senti questo suono? Ma sta immaginando la testa! Casunamo, non è che mica giochiamo. La differenza la fa chi balla, chi non si muove una palla. Più niente, si svuota la mente. Non so se respiro il buco, l'ozono. Non voglio capire, sapere chi sono. Chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, chi sono. Ho fatto più spazio, qualcosa di buono. Ora può urlare, pensare il mio suono. cose da dire alla gente sulle pareti della mia mente. Inciso per bene sui muri del cuore, chi parla non muore, fa bene l'amore. Penso, lo dico, lo scrivo, ora lo ballo, così me lo vivo. Balla un suono nel tempo. Donano vita e colpiscono in centro, anche rumori se suonano a tempo. Così la storia la scrivi la tu, magari più bella.